la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:30 primi, 29 secondi dal caldo di Milano in diretta. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto, Oscar Giannino. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, e se volete intervenire 800 24 00 24, trasmissione che nasce dalla lettera di un nostro amico ascoltatore commercialista, per quello che sta avvenendo in questi giorni a seguito di una circolare, visto che noi autonomi dobbiamo combattere col fatto che le fonti di diritto sono le circolari arrivano incessantemente, di solito arrivano o qualche minuto prima o qualche minuto dopo della scadenza che tu devi ottemperare, e questo naturalmente crea un problema. E allora, innanzitutto, questo nostro commercialista ci segnala, non solo a nome suo, ma per così dire a nome di tutta la sua categoria, che cosa sta avvenendo adesso, e quindi ho deciso immediatamente di appaltargli con la sua testimonianza di tecnico un pezzo di questa trasmissione. Ma diciamo, gli epic fail, per così dire, fiscali di questi giorni sono numerosi e diversi, per così dire. Perché per esempio, malgrado qualche gattaccio nero come il sottoscritto, i suoi amici dei conti della Belva, più e più volte nelle nostre trasmissioni mesi scorsi avessimo per esempio invano sentito anche politici che sono stati sostenitori della nuova tassa anti Airbnb, stiamo parlando quindi degli affitti turistici brevi, dicendo loro: guardate che state commettendo un errore perché Airbnb non ha la stabile organizzazione in Italia. Risposta: bene, gliela faremo mettere, per decreto. Dopodiché l'hanno fatta comunque, e dopodiché di male in peggio, perché adesso eccola arrivata la prima scadenza da pagare, ma ex post i politici si sono resi conto che la trasformazione in sostituto d'imposta a quel punto diventa per gli intermediari italiani, cioè 120.000 si calcolano italiani che devono diventare sostituto d'imposta. Secondo, non è, caro politico che hai votato, da un momento all'altro si diventa sostituto d'imposta nel nostro paese, e quindi ecco che i giornali scoprono, dopo non aver dato retta prima a chi lo diceva, prima di votare una nuova imposta bisognerebbe pensare agli effetti, ed ecco che ancora una volta ci si rende conto invece di che cosa succede davvero. Quindi diciamo una puntata dedicata a questo paese singolare in cui ci sono 350 codici tributo, e sempre nuova però è sempre più difficile da tenervi dietro la produzione di norme su come si fa davvero a essere in regola per l'utilizzo dei 350 codici tributo, e infine quando si aggiungono poi nuove imposte lo si fa con una modalità nella quale sembra proprio che chi le istituisce sia, come devo dire, indifferente rispetto alla realtà reale del mondo, in questo caso delle imprese che nella filiera vanno dalla grande, tra virgolette, multinazionale fino a imprese individuali come e ovviamente o soggetti persona nel caso degli affitti turistici. Ecco alcune di queste contraddizioni. Allora cominciamo con i nostri due ospiti. Il primo è appunto il commercialista della provincia di Bari, che ci ha scritto e che ringrazio non solo di averci scritto ma di aver accettato di raccontare l'oggetto della sua lettera per condividerla con tutti coloro che sono in ascolto. Vito Torres, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Vito, buon pomeriggio, grazie a lei Oscar. Allora, che cosa avviene? Che cos'è che ha turbato la sua vita così ordinata, coi tempi così lunghi a disposizione del cliente? Che cosa avviene invece che la turba? Perché lo Stato produttore di norme attenta ai suoi sogni? Che cosa sta avvenendo? Allora, diciamo che io ho solamente 11 anni di libera professione, sono in proprio da 11 anni. Però in questi 11 anni ne ho viste di cotte e di crude. E tutto è cominciato, io parlo della mia esperienza, con la Visco Bersani del luglio 2006. dove per la prima volta era già successo, sono state introdotte delle norme in barba allo statuto del contribuente con efficacia retroattiva. Allora ci furono le norme sull'IVA sugli immobili, sui falsi autocarri che diventarono improvvisamente falsi autocarri. E noi commercialisti combattiamo quotidianamente con una serie di innovazioni, di adempimenti che vengono introdotti di anno in anno, sono completamente gratuiti, gravano solamente su di noi, ma non è che gravino su di noi, gravano sui contribuenti, perché i politici sono bravi a dire che lo Stato non aumenta le imposte. Questo è vero, però indirettamente aumenta, cioè, il costo. Non sempre, a dire la verità, non sempre è vero, però diciamo in generale... Sì, non sempre è vero, loro sono bravi a dire questa, sì, diciamo, a vendersi questa falsa verità. Però di fatto sa che questa serie di adempimenti innumerevoli che sono stati introdotti, soprattutto dal decreto 196 del 2016, dalla, prima della, che andasse via Renzi in sostanza, e sono state introdotte una serie di adempimenti che hanno veramente reso invivibile l'attività di studio. Premetto che io sono un piccolo studio, per cui non ho una grandissima quantità di clienti, però non riesco quasi più a seguirli, perché ci sono una marea di adempimenti. Quali sono questi? Cominciamo con l'introduzione dello spessometro trimestrale e le liquidazioni trimestrali. Da qui prima scadenza, il primo trimestre l'abbiamo già assolta. Un adempimento, a mio avviso, del tutto inutile, perché questi dati l'Agenzia delle Entrate li aveva comunque, li aveva sia con la comunicazione annuale, esatto, sia con la dichiarazione IVA che facevamo a settembre dell'anno successivo. Il problema è questo: caricare noi intermediari di tutti questi adempimenti che scarichiamo sui contribuenti, purtroppo, perché hanno un costo per noi le software house e dobbiamo di conseguenza scaricarle sui nostri clienti, non fa altro che peggiorare sempre di più la situazione dei clienti, delle aziende, delle imprese, che devono pensare a fare profitto, non devono pensare ai documenti, a portare le carte al loro consulente, e quindi non devono perdere tempo in adempimenti che sono eccessivi, seppur telematici, portano via una marea di tempo e non producono effetti per l'erario, a mio avviso. No, soprattutto se si tratta di dati già in suo possesso, ma vabbè. Già in possesso, sì, sì, sì. Ma e poi viviamo, lei ha citato la questione dei B&B, il 31 luglio c'è la scadenza dei 7,70, delle certificazioni uniche, dobbiamo liquidare le imposte per i nostri contribuenti, abbiamo problemi dappertutto, abbiamo problemi con il contenzioso, mi occupo anche, in questi 11 anni ho fatto un po' di contenzioso, però anche lì mi rendo conto che ci scontriamo con una realtà che proprio non ha nulla a che vedere con noi tecnici. Io mi sono trovato sentenze di commissione tributaria provinciale scritte da un ingegnere. Allora, è come se a me facessero decidere una materia relativa ai calcoli strutturali di un immobile. Io non sono formato, quindi mi chiedo come può uno Stato di diritto, uno Stato moderno, permettere che nelle commissioni tributarie ci siano degli ingegneri. Per carità, tutto il rispetto, avranno fatto pure la loro esperienza, ma io ho avuto esempio di una causa che era una questione di mero diritto, se una persona fosse o meno amministratore di fatto di una SRL. E chi ha scritto la sentenza è stato un ingegnere, cioè secondo me questo è scandaloso per uno Stato. Senta, ma la circolare che in realtà è arrivata, sì, alla data del 13 luglio, ma sui vostri tavoli è arrivata lunedì, e quindi insomma non era il 13 ma erano passati altri due giorni, e che è relativa agli adempimenti da fare entro la fine del mese, cambia cose da fare entro la fine del mese? Chiarimenti in materia all'applicazione degli studi di settore e dei parametri, sì, per l'anno d'imposta 2006. Infatti è stato anche rilasciato un nuovo aggiornamento software che io ho provveduto a fare solo stamattina, perché non so perché il Java, che è un'applicazione che usa l'Agenzia, sì, delle Entrate, crea sempre conflitti con i vari software che utilizziamo, quindi sono riuscito a farla. Il problema è che questa circolare, questo nuovo studio di settore, può rendere non congrui, a me è successo, un cliente a cui avevo già comunicato le imposte da pagare, per cui ora sono costretto a richiamare. Perché lei si era portato avanti rispetto alla scadenza di fine mese, illuso. Ma la scadenza è arrivata, cioè i clienti ci premono perché non vogliono sapere di che morte, tra virgolette, devono morire l'ultimo giorno. Siccome la scadenza è il 31 luglio, io le avevo consegnate venerdì scorso, avevo avuto l'incontro. Ora sono costretto a rivedere tutto da capo, a riconvocarli, a rifare la simulazione con loro e fare le varie valutazioni che vanno fatte in questi casi. Ma è solo il 18, di chi si lamenta? Lo Stato vi dà una settimana. E qui però devo fare una mea culpa alla nostra categoria, mi permetto di dirlo, perché noi siamo bravi a lamentarci, io con i colleghi quando mi trovo presso i convegni abbiamo tutti le stesse lamentele, però nonostante siamo la categoria professionale che più di altre ha il reale polso del paese, di qual è la situazione, non facciamo nulla diciamo per renderla evidente. Abbiamo delle sigle sindacali, hanno fatto qualcosa, io ho partecipato allo sciopero che c'era stato il 14 di dicembre, due giorni prima della scadenza dell'IMU, un altro adempimento pauroso della liquidazione delle imposte di IMU e TASI. Sono andato a Roma, sembrava che fosse cambiato qualcosa, in realtà anche lì mi sono reso conto che abbiamo fallito proprio come categoria, nonostante il nostro presidente nazionale, anche l'ordine di cui faccio parte io di Bari, si stanno muovendo, stanno facendo tanto, però non basta, perché le circolari escono sempre più a ridosso della scadenza, abbiamo sempre meno tempo per studiarle e per metterle in pratica, perché poi il problema è, a me sembra che questa cosa sia voluta scientificamente dall'Agenzia delle Entrate. Spieghi perché ha questo dubbio. Perché in questo modo è facilissimo sbagliare, fare un errore, e ad ogni errore c'è la sanzione. Quindi io temo, ma ne sono convinto sempre di più, che sia una politica dell'Agenzia delle Entrate fare cassa attraverso le sanzioni. Tanto fare contenzioso quasi quasi non ne vale la pena. Tanto vale pagare, ma questo l'abbiamo spiegato mille volte. Sì, infatti, si fa prima, quindi secondo me questo è il motivo. Quindi questa serie di adempimenti, ripeto, inutili, perché faccio un esempio, se la lotta, siamo tutti d'accordo che bisogna combattere l'evasione, e noi commercialisti, se c'è questo gettito in Italia, il merito è di noi, che siamo dei presidi di legalità, noi facciamo versare le imposte. No, voi siete diventati, come dico io, ma questo non deve essere d'accordo, io ho la lingua un po' tagliente, lo Stato vi ha spiegato, rendendovi, estendendo nel tempo la vostra corresponsabilità col cliente, patrimoniale, civile, penale, pure quella, che siete dei funzionari dello Stato pagati dal cliente e che quindi deve essere chiaro qual è il compito prioritario che assolvete, non il cliente che vi paga, ma lo Stato che vi punta la pistola alla tempia. Voglio ripetere ai nostri ascoltatori una cosa che forse sfugge, perché se non siete autonomi non siete alle prese con gli studi di settore, tra gli autonomi che sono sottoposti a diverse centinaia di studi di settore. Questi chiarimenti che sono arrivati con la circolare 20, quella del 13 luglio 2017, che è arrivata sul tavolo dei commercialisti lunedì scorso, l'altro ieri, questi chiarimenti sono relativi a come si calcolano gli studi per l'anno scorso, il 2016, il cui pagamento era previsto il 30 giugno, il 30 luglio, per chi non avesse pagato al 30 giugno, era con la maggiorazione dello 0,4%. Poiché arriva la circolare, a pochissimi giorni devi ricominciare tutte le simulazioni, in questo è stato chiaro il nostro ospite, tu toppi anche la seconda scadenza con lo 0,4%. Avete capito come funziona? Ecco, funziona così. È questa la maniera dello Stato di dire che lui è la fonte della legalità. No, lui è la fonte dell'errore deliberato alla ricerca poi degli interessi di more e sanzioni. Ecco, vorrei che fosse chiarissimo che di questo si tratta. Non tocca a me dire che vorrei i commercialisti in piazza a urlare, perché lo Stato qualche anno fa li ha pure normalizzati commissariandoli e mettendogli un notaio alla testa fino a che non hanno capito che dovevano stare con le penne più giù, per così dire, non se ne adontino i commercialisti che ci ascoltano, intanto sono preziosissimi. Sto criticando quel commissariamento dello Stato e non voglio entrare nella vicenda ovviamente congressuale che lo determinò, però la modalità con cui era fatto, con un notaio alla testa, per tutti i coloro che hanno a che vedere col mondo dei tributi, era chiaro quale fosse il messaggio, ecco, per così dire. E purtroppo anche quello fa parte di una strategia. Ecco, la strategia è questa. Dopo l'interruzione sul traffico, sentiamo invece cosa sta capitando per via dell'attuazione, anche qui sul tamburo, della norma per la quale 120.000 soggetti, dalla multinazionale fino alla persona fisica, hanno ricevuto l'ordine di diventare sostituti d'imposta. E è attuabile questa cosa? A. B. Che problemi crea? C. Lo Stato ha fatto tutto tecnicamente una volta che stabilisce questo nuovo onere, questa nuova modalità per la raccolta del gettito e queste nuove responsabilità, ovviamente, perché diventa sostituto d'imposta. Ma ha fatto tutto ciò che era necessario perché ci fosse il tempo per capire, ognuno ha forme giuridiche diverse, come davvero porsi in condizione di ottemperare, tra un minuto, perché abbiamo con noi il secondo ospite, che è il Public Policy, Policy Manager di Airbnb in Italia, Alessandro Tommasi. Un minuto di traffico e siamo con lui. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presento... La versione di Oscar. Eccoci qua tornati. Allora, dopo la circolare che arriva per gli studi di settore a cavallo, già oltre la prima scadenza di pagamento, e quando oramai mancano pochissimi giorni, pochissime ore alla seconda, in cui già era maggiorato lo 0,4 perché non avesse pagato prima, ma bisogna ricominciare da capo, perché se avete pagato col vecchio criterio magari vi beccate sicuramente la contestazione comunque. Un altro esempio: la tassa anti-Airbnb, come la chiamo io, ma insomma il sostituto d'imposta per gli affitti brevi turistici, entra nel nostro ordinamento con politici molto determinati a questo fine, con il decreto manovrina, e quindi siamo a fine maggio. Lo sosco, alla fine di maggio, il governo si impegna a delega, naturalmente, a chi? Alla fonte vera del diritto per gli adempimenti tributari, cioè l'Agenzia delle Entrate, quella di dare tutti i chiarimenti del caso, perché la scadenza arriva subito, come ovvio. Ecco, sentiamo da Alessandro Tommasi, qui per Airbnb in Italia, che cosa succede da allora. Lo Stato, dopo aver introdotto questo obbligo, in che condizioni mette voi, ma ripeto, tantissimi soggetti sul territorio, che vanno dalla persona fisica alla ditta familiare, cioè gli intermediari degli affitti brevi turistici? Che cosa è avvenuto? Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito ovviamente. È successo che nel contesto di un provvedimento da 3 miliardi e mezzo quasi, la manovrina, è stata inserita una norma che raccoglieva poco in termini anche di gettito rispetto a quello che è in realtà anche la grandezza del mercato, e in pochi giorni poi sostanzialmente il Parlamento e il Governo hanno cambiato più volte la versione, perché anche questo è importante da dire, perché noi abbiamo più volte avuto incontri con tutte le istituzioni per spiegare quelle che sono le necessità di una piattaforma elettronica, quantomeno inizialmente, e fino all'ultimo momento della discussione alla Camera di fatto tutti andavano dritti per una strada, quella del sostituto d'imposta, salvo poi un ripensamento finale con ampia riformulazione di emendamenti, come tutti sappiamo avvenire fin troppo spesso. E poi è successo che è arrivato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate a 4 giorni dalla prima termine della, diciamo, dalla prima scadenza nella quale si aspettavano che piattaforme elettroniche, a quattro giorni dalla scadenza secondo diciamo, per cui piattaforme elettroniche e decine di migliaia di agenti immobiliari in tutta Italia dovevano conformarsi, diventare agenti, diventare sostituti di imposta, e chi non ha una residenza in Italia, come diciamo una stabile organizzazione in Italia, addirittura doveva avere il tempo di nominare un rappresentante fiscale che si facesse carico di tutti questi 4 giorni. La cosa che trovo quindi ancora più curiosa è di voler applicare una soluzione uguale per tutti fra soggetti incredibilmente diversi. Tra l'altro la locazione turistica è come dire una forma giuridica che ha 1000 sfaccettature e 1000 interpretazioni in tutto il territorio nazionale, la cui identificazione dipende dal... No, perché ricordiamo a chi non lo sapesse, ricordiamo a chi non lo sapesse che le competenze turistiche in questo sono delle regioni, cioè noi abbiamo le 20 classiche interpretazioni diverse regione per regione. Esattamente, e da una parte diventano case vacanze, quindi una struttura ricettiva alla quale applicare un reddito fondiario, non so se è corretto oppure no, e quindi poi la cedolare secca, in altre sono locazioni turistiche, insomma molto, molto diverso. Ma tra l'altro manovrina ha fatto qualcosa in più, ha anche inserito il tema della tassa di soggiorno, di nuovo qui neanche i giorni che ci sono stati concessi in attesa del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, perché immediatamente diventano tutti anche lì responsabili del pagamento della tassa di soggiorno. Ricordo che la tassa di soggiorno è stata istituita nel 2011 e da allora si aspettava un regolamento attuativo, che ovviamente non è mai arrivato. Da allora 7.999 comuni, insomma quelli che possono istituirla, tutti con ovviamente, naturalmente, dei regolamenti che sono diversi. Noi abbiamo avviato collaborazioni e discussioni con tanti comuni, ma chiaramente c'è la necessità di adeguarsi ad ognuno di questo. La cosa che, come dire, trasversale è che da una parte non c'è la comprensione di che cos'è una piattaforma elettronica e di come questa ragiona, e dall'altra parte del fatto che applicare le regole identiche alla piattaforma elettronica, agli agenti immobiliari, decine di migliaia in tutta Italia, e al property manager che magari gestisce una decina di case, non può essere la stessa cosa, e applicare la stessa soluzione chiaramente porta all'inapplicabilità forse per tutti. Allora, ricordiamo, stiamo parlando nella previsione di entrata. Lo sapete che quando si introducono le imposte per ragioni di principio si fanno poi previsioni di entrata che magari poi vengono classicamente smentite in una maniera anche clamorosa. Ma in questo caso, per gli affitti brevi turistici, nella manovrina, mi corregga Tomasi se sbaglio, il gettito atteso era di 80 milioni quest'anno, che poi salivano a 140. Più o meno l'anno prossimo. Il problema è che sono già passate le scadenze e quindi a non essere adempienti cosa si rischia? Dipende da chi, diciamo, dal vario soggetto, quindi dall'intermediario ha ovviamente tutte le responsabilità che derivano dall'essere un sostituto d'imposta, con tutto quello che ne consegue anche in termini di certificazioni, documentazione da produrre, eccetera. Per gli host, quindi per i proprietari di casa, questo è un po' più, diciamo, complicato, un po' più difficile da dire, ovviamente poi forse non aspetta neppure a me, però se l'intermediario non adempie rimane in capo al soggetto singolo versare la tassazione diciamo sostanzialmente al prossimo anno. Ma una cosa ancora più interessante, perché in tutto questo confusione che è stata creata c'è anche una discriminazione fra i vari soggetti, quindi le varie piattaforme ad esempio o i vari intermediari, se gestiscono meno il pagamento, e anche la definizione di che cos'è la gestione del pagamento è anche questo un termine molto importante, che però non è molto specificato, e quindi ci sono piattaforme come Airbnb che gestiscono in toto il pagamento fatto solo con formula di pagamento elettronico, quindi già completamente tracciabile, invece altri metodi che non sono altrettanto tracciabili. Sicuramente non ci sono piattaforme che non, come dire, non prevedono il pagamento online, e quindi di nuovo lo deve raccogliere, non lo deve raccogliere. Leggo più dalla stampa, insomma. Esatto. Io però le chiedo se ritiene, perché io capisco anche che un'azienda poi di fronte a un presidente di commissione bilancio, adesso leggerò la dichiarazione che ha fatto rivolgendosi proprio a voi, non all'intero settore, il presidente della commissione bilancio della Camera, che tra coloro che più fortemente hanno voluto questa imposta, cioè l'onorevole Francesco Boccia, trovate, cari ascoltatori, la dichiarazione per esteso su un articolo che la stampa oggi pubblica su questo argomento di cui stiamo parlando a pagina 19, l'articolo di Paolo Baroni, molto ben fatto. E l'onorevole Francesco Boccia risponde duramente alle critiche che qui per Airbnb, ma insomma generalmente a nome dell'intero settore interessato da questa nuova imposta, modalità, diciamo così, di imposta e di responsabilità di imposta, abbia appena esposto Alessandro Tommasi. Cosa dice l'onorevole Boccia? Aperte virgolette. Non pagano? Ne risponderanno le autorità competenti. Mi piacerebbe sapere cosa gli accadrebbe se negli Stati Uniti non pagassero le imposte dovute. Forse non hanno capito che l'equità fiscale è un valore globale che va sempre rispettato. Ci sono le leggi e le autorità preposte a farle rispettare. Cioè, l'implicita accusa, perché non è esplicita, io voglio essere corretto, dico l'implicita accusa è che stiate inventando delle difficoltà tecniche solo per non pagare, Tommasi. Non è così. Abbiamo 350 città in giro per il mondo con le quali collaboriamo per, ad esempio, la collezione, la riscossione e il versamento della tassa di soggiorno, qualcosa che abbiamo avviato anche in Italia con il primo accordo che abbiamo firmato a Genova, e altre città seguiranno. Per noi è un aggravio anche quello di costi, che però sosteniamo molto volentieri, e l'abbiamo detto fin da subito, dall'inizio, anzi da prima dall'inizio della discussione di questa manovrina, abbiamo detto siamo pronti a fare la nostra parte, però ci deve essere un confronto, una comprensione delle piattaforme, del loro funzionamento, e metterci nella condizione di farlo. Ecco, questo secondo me è quello che non succede altrove, cioè l'applicazione di regole senza di fatto una consultazione. Ma visto che siete appunto un gruppo presente nel mondo, ci sono esempi di altre autorità tributarie? In questo caso stiamo parlando della controparte tecnica, anche se la controparte tecnica è poi quella che scrive le norme, l'Agenzia delle Entrate. Altrove capita, vi è capitato nella vostra esperienza, che la modalità attraverso la quale ottemperare all'obbligo fiscale, che è una scadenza prevista in precedenza e valida per tutti, arrivino due giorni prima della prima scadenza, come è avvenuto in questo caso, 48 ore prima della prima scadenza per pagare questa nuova imposta con la nuova modalità, è arrivata l'istruzione tecnica. Qualche altro paese al mondo è in queste condizioni? Si comporta così con voi come contribuente? No, in nessun altro paese del mondo succede qualcosa di questo tipo. E tra l'altro le discussioni che abbiamo avuto in Italia sul tema della tassazione del guadagno dei nostri host sono di fatto quasi un unicum a livello globale, dove negli altri paesi stiamo avviando delle conversazioni di questo tipo, sono conversazioni con i governi o con le amministrazioni competenti nei diversi paesi, proprio per cercare le modalità di rispondere alle loro necessità e farlo in maniera, come dire, che sia fattibile poi per la nostra piattaforma. Questa è la più grande differenza. Ma un altro aspetto credo che sia importante da utilizzare per rispondere all'onorevole Boccia, al quale, come ho già presentato questo tema in diversi incontri che abbiamo avuto, cioè il potere di equità e di redistributivo della piattaforma, delle piattaforme dell'economia digitale, dove il prodotto non è quello immateriale che può essere portato ovunque, ma il 97% di ogni transazione rimane nel territorio, perché è sul territorio che c'è la casa dove i nostri host hanno ospitato i loro turisti, e quindi è qui che rimane il territorio, e qui c'è un fattore fortemente redistributivo. Quindi il primo fattore redistributivo è già nel funzionamento, dell'economia stessa. Lo so, però questo sfugge al politico, mi dispiace dirlo fortissimamente, in questo, tra virgolette, sotto la pressione della recessione alberghiera, perché questo è sotto gli occhi di tutti che è così. So, c'è anche un pezzo di Confindustria, ma questo non mi fa vero nel dirlo. Quando invece si tratta di due offerte totalmente diverse, quello che si continua a non capire, come a proposito di Uber e Taxi, sono due modalità di incrocio della domanda e dell'offerta totalmente diverse, invece loro sostengono no, è la stessa cosa, ma loro hanno meno aggravi. Io ringrazio anche Tommasi, mi tocca informare chi è in ascolto. Nel frattempo a Milano è stato scarcerato Said Mahmoud Diallo, il 31enne della Guinea, che due giorni fa ha aggredito con un coltello un poliziotto all'esterno della stazione centrale. C'ha l'obbligo